Savonarola, il frate che sfrancesizzò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che si trovò nel bel mezzo dell'euforia positivista generata dal progresso, dalle macchine, dall'elettricità, che sembrava non avere mai fine e che pochi avrebbero scommesso che sarebbe naufragata nella prima guerra mondiale, e lette da me che mi trovo nel bel mezzo dell'euforia globalista generata dall'evoluzione tecnologica, dai computer e da internet, che sembra non avere limiti ma che molti scommettono naufragherà nella terza guerra mondiale. D'altra parte, i neutrali sono come chi sta al secondo piano, che ha il fumo del primo e il piscio del terzo. Serio. Capitolo 23. Corri ragazzo laggiù! I primi ambasciatori che la Repubblica mandava a Re Carlo non ottenevano altro che brusche risposte e si chiedevano per qual via volesse passare, a ciò la fornissero di vettovaglie e il re «fornite tutto il dominio». Era sdegnatissimo di vedere la città di Firenze mettersi tutta in armi come all'avvicinarsi d'un nemico, e dall'altro lato gli ambasciatori, vedendo nel campo Piero dei Medici e dubitando che il re non volesse rimetterlo in Firenze, usarono parole più ardite che savie, onde ne era a vicenda cresciuto lo sdegno, e senza un uomo che avesse avuto grande autorità e fermezza non era più sperabile accordo amichevole. Tutti si rivolsero allora unanimi al Savonarola, egli solo aveva saputo usare un linguaggio fermo e imperioso verso quel re senza irritarlo, egli ne era quasi venerato ed aveva tenuto con lui continua corrispondenza di lettere, delle quali ora tutti sapevano quale fosse il tenore. Infatti una di esse, venuta nelle mani dei suoi nemici, era stata da loro pubblicata per muovergli contro lo sdegno della Lega, ma invece gli aveva immensamente accresciuto l'amore del popolo, perché discorreva pressa poco in questi termini: «Cristianissimo Sire, il Signore vuole che i fiorentini restino collegati con la vostra maestà, ma vuole che sotto la vostra protezione sia ampliata la loro libertà e non l'autorità di alcuno particolare cittadino. Imperocché la Divina Bontà ha disposto e deliberato di mandare per tutto a terra i tiranni. Il Signore punirà terribilmente quei privati cittadini che volessero usurpare il dominio di questa florida Repubblica, come nel passato è avvenuto, perché questo nuovo e popolare governo e reggimento è stato fatto da Dio e non da uomo alcuno, e perché egli ha eletta questa città e vuole magnificarla e la ripiena dei suoi servi, e chi la tocca tocca la pupilla del suo occhio, onde, o Sire, se voi non obbedirete e non manterrete le promesse ai fiorentini e non restituirete le loro fortezze, molte saranno le avversità che vi verranno addosso e i popoli si ribelleranno contro di voi». Chi altri poteva, chi doveva presentarsi al re per liberare la Repubblica da tanto pericolo se non colui che sapeva usare un tale linguaggio? A Poggibonsia dunque si incontravano di nuovo Carlo VIII e il Savonarola, il quale, assumendo il suo tono profetico e imperioso, ripeteva a voce quelle cose medesime che aveva dette in iscritto. Rammentava al re che ora tornava quasi fuggendo verso casa come questi nuovi pericoli erano quelli appunto che essi gli aveva già predetti a Firenze e che gli aveva riconfermati nelle sue lettere. Il re parve quasi atterrito a questo linguaggio e, continuando subito il suo cammino verso Pisa, pregò il Savonarola di accompagnarvelo, ma questi, dopo avergli parlato una seconda volta a Castel Fiorentino, volle tornarsene indietro per non avere a capitare nelle mani dei nemici di Firenze. Il 21 di giugno egli annunziava dal Pergamo che il pericolo era anche questa volta passato e di cui pigliava occasione per raccomandare di nuovo le orazioni, il ben vivere, l'unione e il governo popolare. L'entrata del re a Pisa era intanto trionfale. I pisani gli aprivano le case dei principali cittadini. Le loro donne si privavano di tutte le gioie per donarle a lui e ai suoi baroni. Così, facendo contrasto al malumore che avevano mostrato i fiorentini, cercavano, contentando la sua avarizia, a tirarlo dalla parte loro. E quando egli per questi segni d'affezione era già assai ben disposto, ecco che, uscendo un giorno dalla messa, gli vengono incontro le più belle donne pisane vestite a bruno, con le chiome sciolte, coi piedi nudi, confuse, funi al collo in segno dell'odiata servitù, e ad alta voce chiedevano la loro libertà. Il popolo intero si univa a quelle voci, il re e i suoi generali parevano commossi a questa scena. Si raccolse difatti il consiglio dei baroni e si tenne per un momento serio discorso da aiutare i pisani, ma questo pensiero fu poi, come tutti gli altri, abbandonato. Ai pisani non fu data la libertà, ai fiorentini non si resero le fortezze, al Savonarola non si tennero le nuove promesse, ma pigliando la via di Lucca e Pontremoli, il re, insieme con l'esercito, continuava il suo cammino. A Fornovo sul Taro incontrava gli eserciti alleati. Egli aveva 9.000 uomini, i nemici assai di più. Si venne aggiornata il 6 luglio e fu poi lunga disputa da qual lato fosse stata la vittoria. Ma certo, il re volendo passare passò, gli alleati volendolo impedire non poterono. Carlo VIII si fermava ad Asti, onde s'abbandonò di nuovo ai piaceri e tornava poi lentamente in Francia. Il 7 luglio Ferdinando II d'Aragona faceva la sua entrata in Napoli, ristabiliva il caduto governo e non gli restava altro a combattere se non quelle poche guarnigioni che, ancora non avendo ceduto, si trovavano sparse nel regno senza aiuto e senza consiglio. Così i francesi, in meno di un anno, avevano traversato due volte tutta Italia, conquistando e perdendo con la medesima facilità, scontentando ugualmente amici e nemici, né lasciando di loro altra memoria che di avidità e di malafede. La loro condotta verso Firenze continuava ad essere sempre la stessa, sia che il generale che teneva la fortezza di Pisa ricevesse in segreto ordini diversi da quelli che il re gli mandava in palese, sia, come altri dicevano, che egli fosse innamorato di una giovane pisana, certo è che non solamente non rese mai le fortezze, ma giunse, una volta che i fiorentini combattendo i pisani saranno spinti assai oltre verso la porta di San Marco, a far fuoco addosso a loro con le sue artiglierie, ammazzandone parecchi. La Repubblica faceva per queste cose continue rimostranze, mandava nuovi ambasciatori e nuovi danari al re, prometteva di aiutare i soldati sparsi nel regno. Nel mese di settembre messer Niccolò Alamanni tornava finalmente dalla Francia con un ordine espresso del re ai suoi generali e soldati che rendessero le fortezze e lasciassero il soldo pisano. Ma lungi dall'obbedire, nel gennaio del 1496 i francesi vendettero ai pisani la loro fortezza per 14.000 fiorini ed altri 10.000 ne ricevettero per il prezzo delle artiglierie che lasciavano. Le fortezze di Sarzana e Sarzanello furono per 20.000 ducati vendute ai genovesi, quella di Pietrasanta ai lucchesi per 30.000, ai fiorentini non fu rilasciata che la fortezza di Livorno. Eppure, malgrado tutto ciò, la partenza dei francesi dall'Italia aveva peggiorato gravemente le condizioni della Repubblica. Gli alleati, ormai liberi e sicuri da ogni pericolo, si potevano rivolgere contro di essa. Odiavano mortalmente quel nuovo governo e volevano punirlo per essersi mantenuto fedele alla Francia e non aver voluto entrare in quella lega che essi dicevano aver fatta per liberare l'Italia dai barbari. Il pericolo diveniva quindi gravissimo e la sola speranza che Firenze potesse avere contro nemici così potenti stava nel poco accordo che regnava fra di loro. Il Papa e i veneziani volevano infatti rimettere Piero de' Medici, ma il Moro, sebbene in apparenza consentisse a questa proposta, odiava personalmente Piero, andava d'intesa con gli arrabbiati e nutriva qualche lontana speranza di poter un giorno stendere la sua potenza anche su quella Repubblica. Nondimeno fu concluso per allora di incoraggiare il Medici a raccogliere uomini e danari onde tentare il suo ritorno in Firenze. Egli, come è ben da credere, si mise all'opera assai volenteroso e, sebbene fosse già rovinato nella fortuna e nel credito, oppure fatto il suo maggiore sforzo, raccolse 10.000 ducati che pose nelle mani di Virginio Orsini, a ciò radunasse i suoi antichi soldati. E l'Orsini, che il giorno della battaglia del Taro si era vergognosamente fuggito dal campo francese, pigliò con ardore questa occasione onde mettersi di nuovo sulla riputazione delle armi. Nel tempo che Piero e l'Orsini si sarebbero avanzati verso Firenze, Giovanni Bentivoglio, assoldato dai veneziani e dal Moro, doveva irrompere dai confini bolognesi contro la Repubblica. Caterina Sforza, signora d'Imola e Forlì mandare da un altro lato le sue genti a fare lo stesso. I Sanesi e Perugini facevano sperare larghi aiuti e così tutto sembrava augurare prospero esito al tentativo di Piero de' Medici. Ma quando si venne al fatto le cose mutavano aspetto. Piero e l'Orsini si erano avvicinati con le loro genti a piccole giornate verso i confini della Repubblica, aspettando sempre gli aiuti promessi, i quali non venivano mai, onde consumavano invano il tempo e i danari. Mentre nel campo mediceo le cose procedevano con tanta freddezza, a Firenze i cittadini, animati dal Savonarola, mostravano grandissima energia. Il frate s'era da più tempo taciuto a causa dei cresciuti maliumori di Roma, ma nel ritirarsi dal Pergamo aveva annunziato che gravi pericoli sovrastavano alla città. Ora, verificandosi i pericoli annunziati, il suo nome saliva in nuovo auge ed egli, messo da banda ogni riguardo, tornava sul Pergamo. Egli non voleva mezze misure quando la patria era in pericolo. In chiesa, sul Pergamo, col crocifisso in mano, egli consigliava apertamente ad alta voce di mettere a morte quelli che volevano ristabilire la tirannide in Firenze, che volevano farvi ritornare i Medici. «Bisogna usare con costoro come fecero i Romani contro quelli che volevano rimettere Tarquinio. Tu che non vuoi avere riguardo a Cristo, vuoi averne ai privati cittadini? Fa giustizia, ti dico io, tagliagli il capo e sia pure il maggiore della casa sua quanto si voglia, tagliagli il capo!» raccomandava poi energia, coraggio e risoluzione nel prendere i necessari provvedimenti, perché colui che spera negli aiuti divini senza aiutarsi da sé tenta il suo Signore. L'effetto di quelle parole non tardò molto a farsi sentire. 4 giorni dopo la prima predica si vinceva una provvisione che, mentre rimetteva la taglia sopra i medici, era quasi un generale eccitamento alle armi. Essa diceva presso a poco così: avendo Piero de' Medici, per il suo tirannico appetito, tentato molte cose contro la libertà fiorentina, viene dichiarato ribelle, onde, secondo gli statuti, può essere impunemente ammazzato. E perché si vede perseverare nel cattivo animo, incitando ai danni di questa città, non solo molti baroni di Roma, ma il sommo pontefice e quasi tutti i potentati d'Italia, sperando con questi favori occupare la vostra libertà, usurpare le vostre entrate, violare le vostre donne e fanciulle e riassumere quella tirannica vita con la quale egli e i suoi antenati hanno tanto tempo afflitto la vostra città, viene deliberato che chiunque uccidesse detto Piero de' Medici debba avere fiorini 4.000 larghi in oro. Più tardi fu messa una taglia di 2.000 fiorini anche sulla testa di Giuliano de' Medici e furono creati ufficiali per amministrare i loro beni a vantaggio della Repubblica. Ma ciò non bastava, né il popolo fiorentino si fermava a questo. Le prediche del Savonarola avevano allora mosso a prendere le armi arrabbiati e piagnoni, perché l'odio contro i medici era loro comune e la vicinanza di Piero metteva sdegno e paura sia agli uni come agli altri. I provvedimenti presi furono quindi forti e potentissimi. La guerra di Pisa venne subito sospesa, lasciandovi solo 2.000 fanti e 300 uomini d'arme. Mandarono 1.000 fanti e 3.000 uomini d'arme presso Cortona per tener fronte al nemico che sembrava avvicinarsi da quel lato. Nel medesimo tempo venne formato un campo di 1.500 fanti e 300 uomini d'arme presso al confine dei Sanesi per impedire che questi si riunissero coi Medicei. In tal modo Piero de' Medici era come circondato da ogni lato. Egli aspettava ozioso tra le tavernelle e panicale gli aiuti promessi che non vennero mai, ed in su questo aspettare finivano i danari e l'esercito si scioglieva, partendo neanche lo stesso Virginio Orsini. Così Piero de' Medici si trovava nella campagna solo con qualche soldato, con l'impresa andata a vuoto e senza aver fatto altro che raccogliere danno e vergogna e dare l'ultimo crollo alla sua già rovinata fortuna. Si dava dunque ramingo alla fuga e, lamentando la tradita fede e le vane promesse degli alleati, tornava a Roma per cercare ricovero nella corte o presso i suoi amici. I fiorentini, lieti del pericolo superato, rimandavano le genti a Pisa e si mettevano in sempre maggior sospetto della Lega, la quale, come si vedeva ora troppo chiaro, coprivasi col nome d'italiana per meglio opprimere la Repubblica.